sei, mi troverai, dunque aspettami. Comunque vuoi, mi spingerai tra i dubbi tuoi, dunque ascoltami. Io fuggirò da te a dispetto dei semafori e salterò per te nel rispetto degli ostacoli. Rincorrerò quell'ombra a cospetto dei pericoli, ma se la strada è sgombra avrò cura dei centimetri. Dove c'è un Dio ti spegnerà. Pagherò